Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Vi ricordo che questo programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ma andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, questo brano era la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che inizia ora dalle ore 20 alle ore 21.30. Stiamo trasmettendo dagli studi di Radio Onde Furlane a Udine in diretta, non c'è nulla di registrato, pertanto se ci sarà qualche errore, insomma errore tecnico, ovviamente lo facciamo normalmente anche se la trasmissione viene registrata, perciò non fateci caso. E ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Trieste. Il brano, ovviamente, come già detto, era Retribution Behind Enemy Lines, la band statunitense, mentre ora invece andiamo all'ascolto di questa band britannica. Loro sono gli Anti-System, band che era ha avuto, diciamo, l'esordio all'inizio degli anni 80. Questo è il loro primo album del 1985, che si chiama No Laughing Matter, e è proprio stato il primo loro album. Antisystem. The 16 missiles in their tubes, with warheads 10 times as powerful as the Hiroshima bomb, are made ready. Always handy is a wooden club to beat off any unauthorized person trying to interfere. There's another one in the missile control center below. We'll be right back. Ciao a tutte e a tutti, non so se si è sentito il sibilo mio prima tra un... vabbè, non si è sentito, meglio. Allora, si sente, ma non era il tuo sibilo. Allora, iniziamo la puntata di The Res Magnetics di oggi parlando di detenzione delle donne, della condizione della detentiva delle donne. Parliamo dell'Italia e ne parliamo perché è uscito, prendendo spunto diciamo da questo rapporto di Antigone, l'ultimo rapporto di Antigone che è appena uscito e che fa così un po' il quadro generale, aggiornato proprio ad aprile 2023, quindi molto aggiornato. E beh, intanto una nota dolente dal mio punto di vista: il capitolo dedicato alle donne del rapporto di Antigone si chiama Donne e bambini, quindi c'è sempre questa chiaramente il problema dei bambini che sono detenuti insieme alle madri, è una cosa drammatica e insomma seria, però immediatamente scatta questa associazione diciamo patriarcale. E invece ad esempio, ma poi magari lo dirò meglio, le prigioniere politiche vengono trattate in questo rapporto nel paragrafo che riguarda diciamo la detenzione speciale, cioè il 41 bis, regime di 41 bis e l'alta sicurezza, quindi vengono messe qui. Quasi mi vengono in mente prigioniere politiche nei lager, nei campi di concentramento. Nello specifico, mi viene in mente un campo di concentramento in Germania che era destinato alle asociali, dove le politiche venivano definite, praticamente non erano nemmeno donne considerate, erano così degli individui non ben definibili, diciamo, ma comunque non definibili come donne. Allora, che cosa ci dice questo rapporto di Antigone? Ci dice che intanto nelle carceri italiane ci sono circa 2500 donne detenute, che rappresentano, questo numero rappresenta il 4,4% della popolazione carceraria complessiva. E poi che cosa ci dice? Che praticamente diciamo che un quarto circa di questo numero, del numero complessivo di queste 2500 donne circa, sono carcerate nelle carceri solo femminili, e cioè a Trani, Pozzuoli, Roma e Venezia la Giudecca. Tutte le altre, quindi tre quarti, sono invece sparpagliate nelle sezioni, in sezioni separate all'interno di carceri, insomma delle carceri dove c'è in prevalenza la popolazione maschile. E viene sottolineata questa cosa perché in molte carceri ci sono pochissime detenute in sezione, e quindi queste donne sono in una condizione diciamo di isolamento e anche di assoluta mancanza di qualsiasi tipo di tra virgolette trattamento, cioè non possono accedere a niente, praticamente a nessuna attività extra così afflittiva, e quindi insomma la condizione non è peggiorativa diciamo rispetto alla condizione delle sezioni maschili. Dunque, per dare un po' di numeri, il carcere femminile di Rebibbia, che appunto è specificamente femminile, ha 337 detenute per 275 posti letto ufficiali ed è il più grande d'Europa. Poi che cosa si... Ecco, ci sono negli istituti a custodia attenuata per madri di Lauro, Milano e Torino, ci sono 15 donne complessivamente. Torino e Milano Bollate sono sezioni grandi e ospitano più di 100 detenute. Altre, Bologna, Genova, Ponte Decimo, Milano San Vittore, Vigevano, Lecce, Palermo, Pagliarelli, anche qui si superano le 70 unità. E avanti, ecco, L'Aquila imprigiona 12 donne, tutte al 41 bis. e praticamente tutte le donne che sono imprigionate al 41 bis in Italia sono all'Aquila. E, allora, che cosa c'è di interessante anche che ci viene segnalato? Che diciamo che le pene inflitte alle donne di solito sono minori come entità di anni, e accedono più facilmente alle misure di custodia esterna, insomma. Però spesso e volentieri, proprio per questo fatto non possono usufruire di sedi carcerarie vicino a casa, diciamo. Questo diritto viene violato. E poi ci sono delle così note relativamente alla salute, diciamo, al disagio psichico che le donne vivono all'interno delle carceri, e ci sono dei numeri piuttosto impressionanti. Allora, praticamente vado a leggere dalla relazione. Emerge che il disagio psichico è maggiore tra le donne detenute piuttosto che tra gli uomini, che già tra gli uomini la situazione è molto drammatica, ma le donne con diagnosi psichiatriche gravi rappresentano negli istituti visitati il 12,4% delle presenti, contro il 9,2% della rilevazione complessiva. Le donne che facevano parlano della fine del 2022, le donne che facevano regolarmente uso di psicofarmaci rappresentavano invece il 63,8% delle presenti, contro il 41,6% complessivo. Gli atti di autolesionismo sono stati 30,8 ogni 100 presenze tra le donne, contro i 15 degli istituti esclusivamente maschili. Poi si parla del distacco dai figli e di questo senso di colpa pesante che costituisce sicuramente un motivo di destabilizzazione. E, appunto, dicono che sono circa 4.000 i figli di donne detenute nelle carceri italiane. Di questi 4.000, 22 alla fine di aprile 2023 vivevano in carcere con la propria madre. C'erano anche ci sono anche rispetto a questo discorso degli psicofarmaci e quindi della psichiatrizzazione, diciamo, della prigionia, e sono state fatte anche delle analisi però queste sul Manifesto, da parte di una giornalista che comunque si prende spunto anche lei dal rapporto di Antigone, e viene fatto notare appunto che gli psicofarmaci vengono utilizzati come controllo e quindi rappresentano una forma di esecuzione della pena, e quindi si scivola nella cura come correzione, cura tra virgolette, perché cura comunque coercitiva, ma come correzione. E a questo proposito è interessante sapere che l'Italia non fa un monitoraggio sullo stato di salute delle persone detenute. Non ci meraviglia, sappiamo purtroppo tante cose sullo stato di salute delle persone detenute e sulla mala sanità. Non ci sono nemmeno le cartelle cliniche informatizzate, e quindi non sembra possibile definire se e come gli psicofarmaci siano somministrati, quanti detenuti abbiano effettivamente una diagnosi che ne richieda l'assunzione e quanti vanno incontro a sovradosaggi. Quindi il grandissimo numero di morti o di aggravamento della salute a causa di overdose, ad esempio, di psicofarmaci e sostanze psicotrope legalizzate, diciamo, come il metadone, si spiegano anche con questa assolutamente stato di abbandono, diciamo, del monitoraggio di queste dipendenze e di questa somministrazione, insomma, questo abuso di somministrazione di psicofarmaci e metadone. E inoltre c'è anche la condizione ulteriore da disturbo da uso di sostanza, DUS, c'è proprio anche una sigla, e cioè da dipendenza patologica. Tra l'altro queste disturbi da uso di sostanza vengono proprio anche indotte dalla somministrazione abusante, insomma, di questo tipo di sostanze ai prigionieri e alle prigioniere, abbiamo visto in maniera particolare. Allora, poi però magari facciamo un momento di pausa musicale, poi affrontiamo un'altra questione, che è: perché le donne finiscono in carcere? Allora, diceva Goffman, l'impaccio maschile e l'impunibilità femminile, la cultura che condanna è la stessa che assolve. Il processo di creazione della devianza inizia quando le norme vengono prodotte e non quando vengono violate. La devianza non è una qualità dell'azione commessa, ma piuttosto la conseguenza dell'applicazione di regole e sanzioni. Allora, vediamo intanto che le donne sono patiscono una stigmatizzazione più accentuata, no? Rispetto ai reati, cioè al fatto di essere autrici di reato. Però, nonostante questo, le pene erogate, parlano di 7 anni di carcere medio, risultano inferiori rispetto a quelle comminate agli uomini. E questo non solo in ragione della gravità dei reati commessi. E quali sono questi reati? Per lo più si tratta di sfruttamento o di favoreggiamento della prostituzione, 25,8% dei casi. E poi vabbè, di truffa informatica, parlano però di praticamente estorsione di denaro attraverso identità fittizie create in rete, e poi di furto, circa, insomma, 25-23-20%, vabbè. Adesso, al di là dei numeri, cioè c'è questo discorso che sì, ecco, quest'altro discorso. Poi inoltre sembra, ci dice questa giornalista, che la devianza della donna venga tradotta, devianza sempre tra virgolette, ma leggendo l'articolo, venga tradotta in azioni più facilmente, in azioni autoplastiche più che alloplastiche. Cioè, che cosa significa? Ad esempio, e spesso le donne che finiscono in carcere per sfruttamento della prostituzione sono state a loro volta sono state sex worker a loro volta, e poi appunto si sono così affiancate, diciamo, agli uomini sfruttatori per fare in questo ruolo. E quindi viene un po' evidenziato questo discorso di assumere ruoli marginali di sostegno, copertura, fiancheggiamento, favoreggiamento di reati di questo tipo qua. E dunque, sì, allora ci dice questa giornalista, poi vi dico anche il nome, Allora, i reati di sfruttamento e favoreggiamento sembrano rispondere, nella maggior parte dei casi e ancora oggi, ad una tipologia di concessione dell'uomo di potere, accompagnata dal rinnovarsi della subalternità femminile. La gestione della donna prostituta operata da un'altra donna monda parzialmente l'uomo a capo dello sfruttamento, ponendolo su un piano più alto e meno deprecabile, anche per ciò che attiene al punto di vista tradizionale del pensiero criminale. E su questo discorso qua, comunque, della prostituzione e degli atti osceni, eccetera, mi viene in mente la vicenda della signora transessuale di Milano che è stata aggredita in maniera veramente schifosa dagli stronzi in divisa, da alcuni stronzi in divisa. Prima che tra l'altro adesso l'avvocata di questa signora che si chiama Bruna, l'avvocata è una insomma che va avanti, diciamo, e quindi adesso questi qua insomma hanno anche un'incriminazione per tortura e anche con l'aggravante razziale, in quanto appunto hanno nei video insomma che sono stati girati da persone che almeno hanno fatto questo, se non sono intervenute fisicamente a difendere la persona, almeno hanno fatto questo e hanno insomma in qualche maniera così favorito l'emergere della verità, ma appunto era uscito prima di insomma che emergessero le responsabilità di sti qua, era uscito il fatto che ci sarebbero stati degli atti osceni. Invece questa Bruna è stata prima aggredita da quattro passanti, insomma da quattro soggetti, e poi invece di essere aiutata dagli stronzi in divisa è stata questi qua le hanno chiesto i documenti, quindi appunto lei non aveva i documenti, quindi il panico delle persone immigrate che sono prive di documenti, che quindi chiaramente entrano in panico per forza di cose, e lei è andata in crisi, insomma, e sti qua si sono accaniti contro di lei proprio perché insomma in maniera veramente terribile. Poi quando lei ha cercato di ha cercato di scappare e l'hanno poi ripresa, lì c'è stato lo scatenamento e anche questo sequestro in auto e nell'auto sigillata, insomma, dopo averle spruzzato lo spray al peperoncino. Vabbè, avevamo già accennato a questa vicenda, ma l'ho ritirata fuori perché c'è comunque questa cosa dello stigma su una persona che comunque è stata vittima due volte di aggressione e che è andata anche all'ospedale con una ferita alla testa impegnativa. C'è stato subito, prima cosa, questa roba dello stigma e anche una presa di posizione del governo che dalla parte degli stronzi in divisa, naturalmente. Ecco, un'ultima cosa, un attimo, sulla questione della detenzione emerge anche questa cosa della separazione tra donne e uomini in carcere, una separazione che appunto coinvolge anche le attività cosiddette trattamentali, dalla scuola alle attività laboratoriali, qualsiasi cosa. E c'è questo racconto di attenzione uomo in sezione, riferito anche, mi pare nel carcere di Bollate, riferito anche a volontari, diciamo, cioè persone che prestano attività volontarie all'interno del carcere. Nel momento in cui entra un uomo, un maschio, diciamo, nel carcere femminile, le guardie entrano in fibrillazione, attenzione uomo in sezione, mentre il contrario, cioè donne che entrano per varie attività all'interno dei carceri maschili, non vengono così attenzionate in questa maniera. E ecco, un altro ultima cosa, poi mi taccio. Una critica, secondo me, che va fatta, l'ho già accennata all'inizio, all'impostazione del rapporto Antigone, è questa cosa dell'invisibilizzazione delle politiche, delle detenute politiche, che pure e rivoluzionarie, insomma, anarchiche, comuniste, rivoluzionarie, che pure non sono poche, ma l'invisibilizzazione anche delle detenute, diciamo, accusate di terrorismo islamico. Cioè vengono messe tutte insieme in un grande calderone sotto la voce di terrorismo, ma diciamo il discorso di non accettare questa società, questo mondo, e quindi di lottare, di essere prigioniere per questa ragione, quindi di essere in carcere per questa ragione, non viene menzionato. Diciamo che viene più menzionato il tipo di trattamento che queste donne subiscono, ad esempio in 41 bis, le restrizioni, o anche in alta sicurezza, che anche lì non sono scherzi. Però questo, insomma, è una depoliticizzazione. D'altro canto, Antigone, vabbè, sì, magari non è il suo compito, però è un limite che magari invece meriterebbe un discorso più approfondito anche su questo aspetto qua. Vabbè, per stasera su questo basta, magari, insomma, ci torneremo. Stiamo ascoltando in sottofondo questa band olandese del punk hardcore della metà primi anni 80. Era una band olandese, loro erano i BGK, questo è il loro album datato 1986, Nothing Can Go Wrong. BGK. We'll be right back. Un saluto a tutte e tutti, anche da parte mia per questa puntata di giovedì 1 giugno di Zardins Magnetics. Mi inserisco solo per un breve così ragionamento che volevo fare, tentare di fare. Allora, riguardo la vicenda del CPR di Gradisca, ma prima di arrivare al CPR volevo ricollegarmi a quanto è stato detto pochi minuti fa diciamo sottolineare il fatto che qualcosa bene o male, se qualcosa bene o male si è smosso in questi ultimi mesi nella così dialettica anche diciamo ideale, dialettica non proprio, ecco, sicuramente qualitativa, ecco, la dialettica tra movimento e controparte, è stato e capitale. Questo va grazie, diciamo, a quello che ha smosso Alfredo Cospito, soprattutto appunto le prigioniere, sia le prigioniere rinchiuse politiche, sia il 41 bis, sia con condanne di decenni per reati appunto contro, così, sovversivi, diciamo, per riassumere. Soprattutto perché questo è un paese, il nostro, che ha a che fare con un retroterra e con un automatismo anche nei compagni e le compagne, un automatismo dovuto al fatto che c'è un retroterra con vicende di dissociazione, con vicende di resa politica, con vicende di abbandono, con vicende di confusione, di non dare la giusta priorità all'azione diretta, all'attacco, alla qualità, cioè al contenuto qualitativo di queste, diciamo, di questi interventi che sono accaduti anche qua da noi in Italia, cioè nel nostro piccolo, anche in Friuli Venezia Giulia. Queste appunto queste forme di intervento hanno una, diciamo, una soglia, no? Superano una soglia e passano appunto su un altro piano qualitativo della dialettica, ed è per questo che spariscono poi nella valutazione degli apparati, dei media, quelli, diciamo, che sono degli ingranaggi di quello che, insomma, è il dominio effettivo, insomma effettuale, anzi, ecco, come allo stesso modo in cui la donna, insomma, la Bruna è stata così dimenticato il fatto che ha subito due volte una aggressione e immediatamente i politici sono corsi a soccorrere gli uomini in divisa, allo stesso modo anche questo è successo in queste ultime settimane per il CPR di Gradisca, per i CPR in generale e in particolare quello di Gradisca. C'è un assessore qua del Friuli Venezia Giulia che si è premurato di intervenire, non per fare una così promettere di metter mano alla situazione devastante di negazione e di afflizione che subiscono queste persone in questo lager. No, tutto il contrario, per difendere l'operato delle forze dell'ordine che intervengono come celere, non stiamo parlando di pattuglia, sono, è la Celere che va direttamente lì con gli scudi e la, abbiamo visto appunto anche in TV alla, alla trasmissione pochi giorni fa, Piazza Pulita alla 7, sulla 7, intervengono appunto e così massacrando chi è rinchiuso semplicemente perché aveva chiesto di poter avere in mano la delega che la sua avvocata gli aveva già confermato di aver inviato, insomma, al telefono, così del in maniera del tutto eccezionale aggradisca e lasciano usare il telefono. Così succede che senza nessun preavviso un detenuto può essere al CPR, può essere trasferito, che ne so, a Macomer. Macomer non si può telefonare, ad esempio, bisogna aspettare, avere la scheda e chiamare con il dalla cabina. Torniamo noi, questo è successo appunto qualche giorno fa, è uscito su, per fortuna, su sul blog di NoCPR Torino, anzi sul blog NoCPR Torino, noblogs.org, un aggiornamento dove non arrivano i riflettori. Emerge che c'è a Gradisca, già da 2 settimane, uno sciopero della fame e della sete portato avanti da un detenuto, cioè scusate, fino al 30 maggio, per 7 giorni. Un mese fa questo detenuto aveva intrapreso l'iter burocratico per la richiesta d'asilo politico che gli è stata negata nonostante il concreto rischio di essere perseguitato in caso di rimpatrio forzato in Tunisia. Le segnalazioni agli avvocati e ai servizi sanitari effettuate dai reclusi a lui vicini non hanno avuto alcun seguito, seppur le condizioni di salute diventassero più gravi di giorno in giorno. Ieri, cioè il 29 maggio, lunedì gli è stato concesso di vedere il suo avvocato, che ha spinto per l'interruzione dello sciopero in vista della ipotetica soluzione. Tra l'altro, apro per concludere anche una parentesi. Ancora una cosa. Il silenzio invisibilizza soprattutto chi riesce, continuo il comunicato qui da NoCPR Torino. Il silenzio invisibilizza soprattutto chi riesce a ottenere la libertà opponendosi alla macchina delle espulsioni. È il caso di una persona che, in prossimità della scadenza del suo periodo detentivo all'interno del CPR, Gradisca, è stato trasferito in aeroporto al fine di essere deportato. Una volta salito nel volo di linea, scortato dagli agenti, si è ribellato al rimpatrio forzato che gli è stato imposto. Per questo motivo non solo ha potuto evitare l'espulsione, ma anche ottenere la libertà, sfuggendo al rischio di essere nuovamente recluso nel centro. Ecco, volevo solo saltare, così, per così dire, di palo in frasca, però nessuno ovviamente in Italia sa che collega il fatto che c'è in Libia un'offensiva repressiva dove sono rimaste vittime diverse persone, e inoltre oltre 2400 prigionieri. L'esercito nazionale libico Bengasi in Libia, guidato da Haftar, ha lanciato una violenta repressione sui lavoratori rifugiati emigrati a Tobruk e intorno alla zona di Em Saed, al confine con l'Egitto, altro regime notoriamente democratico, tra virgolette, ovvero un'altra dittatura. Finora oltre 2400 persone sono state arrestate e detenute con la forza, le loro case sono state abbattute e tutti i loro averi sono stati distrutti e sequestrati. Queste violente violazioni dei diritti umani sono arrivate dopo la visita di Haftar a Roma qualche settimana fa per discutere di affari migratori con il governo di Giorgia Meloni. Il governo italiano sta creando problemi qui alle persone sul campo, eppure le respingono ai loro confini. Un avvenimento simile è accaduto in Tunisia qualche mese fa, quando Meloni ha visitato i paesi nordafricani e di conseguenza la Tunisia è diventata insicura per i rifugiati e immigrati che vivevano pacificamente nella regione. Rifugiati e immigrati sono diventati un modello di business sia per i politici che per la rete mafiosa e noi lo denunciamo con forza. Chiediamo l'immediato rilascio di queste persone, la restituzione dei loro beni e la cura di coloro che sono stati feriti. È un comunicato che viene dalla Libia, da attivisti libici. Ecco, quella è l'altra faccia del problema, no? Ricordarsi ogni volta che vediamo passare il capo del governo presentate come missioni diplomatiche, uguale verrà applicata una repressione e scorrerà sangue, scorrerà insomma gente buttata fuori di casa e non solo, e anche quelli che finiscono nei CPR funzioneranno. Oltre a funzionare da deterrente, da spaventare tutta la popolazione straniera presente, immigrata presente qui nel nostro paese, sanno che cosa gli aspetta quando verranno rimpatriati. Stiamo ascoltando questa band bergamasca, loro sono i Labile o Labile, insomma a discrezione vostra, un gioco di parole. Questo è il loro primo album CD uscito nel 2010. Mai avrei creduto di potermi ritrovare qui, c'è tutto vuoto e nel d'attorno, il tempo mi spaventa, il buio mi tormenta. perda il tempo. Mi sono incagliato qui, sono distante chilometri dalla riva e non riesco più a tornare. Qualcuno mi sta ascoltando, riuscite a sentirmi quando chiamo? Riuscite a vedere la mia mano? Qui il tempo scorre inesorabile, mi stringere troppo vortice. Un minuto dopo l'altro, il tempo forte su conto inesorabile. Si accorcia la vita, si accorcia la vita, si accorcia la vita, si accorcia la vita. Sospeso nel vuoto è un'ossessione, il corpo sospeso nel vuoto è un equilibrio instabile, lo sguardo attraverso il tuo corpo è un'impressione, ancora sospeso nel vuoto. No, intervengo solo ancora per una, un minuto per dirvi che manca ancora qualche settimana. Però è stata fissata la data dell'udienza a Torino per la Corte d'Appello, diciamo, per riformulare le condanne ad Anna Beniamino e Alfredo Cospito nell'ambito del processo Scrittamanet. Quindi è stata convocata contestualmente una... No, cioè... Nel senso, ci sono delle giornate di giugno che internazionalmente sono diciamo declinate al rivoluzionario prigioniero internazionale, no? Giornate internazionali di tutti i rivoluzionari prigionieri. Quindi in questo ambito il 19 giugno, che sarà lunedì, tra lunedì, davanti al Palazzo di Giustizia a Torino ci sarà un'assemblea, diciamo, di solidarietà, un presidio, chiamiamolo come vogliamo, presenza solidale, scritto non scritto presidio. Ci sono anche qua delle dispute tra varie parrocchie. Presenza solidale davanti al Palazzo di Giustizia. 19 giugno la Corte d'Appello di Torino riformulerà le condanne per gli anarchici Anna e Alfredo nell'ambito del processo Scrittamanet, dopo che la Corte Costituzionale ha ammesso la possibilità di considerare le attenuanti in questo ricalcolo. Un processo che ha aperto scenari inediti nella persecuzione delle idee e delle pratiche anarchiche, o con condanne pesanti e la prospettiva dell'ergastolo per stragi che non hanno fatto né morti né feriti. Un processo da cui ha preso le mosse l'iter politico penitenziario, che per la prima volta anche a un anarchico sta infliggendo la tortura del 41 bis ad Alfredo. I 182 giorni di sciopero della fame di Alfredo, la vasta e energica mobilitazione che lo sciopero ha sviluppato fuori e dentro le galere, hanno dimostrato che lottare contro le smanie repressive dello Stato è necessario, possibile e porta risultati. Non disperdiamo questi risultati, continuiamo a lottare. Assemblea di solidarietà ad Alfredo contro 41 bis e contro l'ergastolo ostativo. Ecco, abbiamo letto questa importante iniziativa che ci sarà fra un po' di settimane a Torino. Sì, pronto. Ci sei? Ciao. Ciao, allora ti abbiamo chiesto di parlarci un po' di George Ibrahim Abdallah e di quello che sta succedendo, di questo processo che ci sarà a Trieste. Sì, sono in diretta. Sì. Sì, allora innanzitutto un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Allora, a Trieste si sta celebrando un processo che ha del surreale, nel senso che sta venendo processato George Ibrahim Abdallah. Chi è George Ibrahim Abdallah? È uno dei detenuti politici da più tempo incarcerati in Europa, dentro dal 1984 in Francia. E precisamente dall'ottobre del 1984 ed è stato condannato ad una sorta di ergastolo, anche se insomma poi magari spiego meglio la questione, per le azioni condotte dalle frazioni armate rivoluzionarie libanesi in Francia negli anni '80. E quindi si tratta di un detenuto libanese, un compagno insomma da decenni in carcere, da 40 anni in carcere, 39 anni in carcere, e che oggi però viene processato a Trieste. Oggi si è svolta la prima udienza di questo processo per un trasporto di esplosivo appunto nell'84, per cui tra l'altro è già stata incarcerata e condannata una persona, la persona che è stata trovata con questo esplosivo, e tra l'altro pare, insomma, come ha sostenuto oggi l'avvocatessa che difende George, che anche lui sia già stato processato e prosciolto per questo fatto, quindi ci sarebbe già una sentenza della Corte di Assise di Roma su varie attività sovversive, diciamo così, imputate a George in Italia in quegli anni. E quindi insomma una vicenda assurda, allucinante, l'accanimento verso questo rivoluzionario libanese, che insomma è sì, pone la magistratura triestina così, in un certo senso la pone a rilievo, se vogliamo, anche internazionale, per la sua una testardaggine che ha veramente stupisce nell'accanirsi contro questo rivoluzionario. E tra l'altro notizia che mi ha dato l'avvocatessa che lo difende, è stata chiesta anche una misura cautelare nei suoi confronti da parte della procura di Trieste. Quindi una cosa impressionante, insomma, è stata chiesta un detenuto per un detenuto da 40 anni in carcere una misura cautelare per un fatto del 1984, quindi siamo a livelli veramente impressionanti. Tra l'altro, sì, prima dicevo l'ergastolo, nel senso che George in teoria è liberabile dal 1999 perché la legge francese lo prevede, dopo un tot di espiazione della condanna se non vi è pericolosità, ma lui non è mai stato liberato e continua a essere in un carcere praticamente perpetuo, nonostante insomma le frazioni armate rivoluzionarie libanesi come organizzazione non esistono più, ed è evidente che insomma che George non costituisce sicuramente più un pericolo per il compimento di azioni combattenti per le quali insomma è stato condannato, tra cui ricordo insomma l'82, l'eliminazione di Charles Rai, addetto a militare statunitense in Francia, Yakov Barsimentov, che era un diplomatico israeliano nonché membro del Mossad, entrambi sono stati abbattuti nell'82 dalle fazioni armate rivoluzionarie libanesi in Francia. E poi c'è stato anche un ferimento grave di Robert Homme, console statunitense a Strasburgo. Ecco, queste erano le azioni fra le principali condotte dalle frazioni armate rivoluzionarie libanesi, che tra l'altro hanno rivendicato anche l'annientamento di Nemon Hunt, il generale USA capo della forza multinazionale del Libano nel 1984 a Roma, nazione rivendicata assieme alle Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combattente. E George è dentro per questa esperienza rivoluzionaria, e insomma quindi un'esperienza che si prefiggeva in sostanza portare la guerra a casa degli imperialisti e colpirli in casa loro, e questa un po' è stata la pratica portata avanti da questo gruppo rivoluzionario formato da libanesi e arabi, ecco, e soprattutto contro l'invasione, soprattutto a seguito delle due invasioni israeliane del Libano nel 78 e nell'82. Ecco, questo un po' per delineare la storia di George e anche relazionandola a un processo che insomma politicamente è come una pulce che si accanisce su un bisonte, nel senso su un uomo molto forte, un rivoluzionario molto forte, che tra l'altro non ha mai piegato il capo, nel senso che dal carcere comunque lui continua a rivendicare la sua militanza rivoluzionaria e l'appoggio alle lotte del popolo, alla lotta del popolo palestinese, in quanto membro anche del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, e la sua opposizione all'imperialismo e al sionismo. Evidentemente la magistratura triestina vuole un po' fare la figura della pulce sul bisonte, ma no, questo non è grave solo questa questione, figurarsi dopo 40 anni di carcere a canirsi contro questo militante rivoluzionario, ma è grave solo dal punto di vista politico, nel senso che si dimostra ancora una volta come quella cloaca fascista che è, insomma, che noi conosciamo bene, evidentemente insomma continuano a essere tali e a perseguitare in questo caso anche uno come George Ibrahim Abdallah. Bene, allora, se sei d'accordo, mettiamo un pezzo musicale e poi parliamo dell'altro argomento, cioè della giornata di domani. Sì, certo. Ok. I want to make it. Allora, mentre siamo sempre qui in diretta su Zardins Magnetics, voltiamo pagina e appunto sempre col compagno da Trieste andiamo a così a lanciare di nuovo l'appuntamento per domani a Trieste per il corteo diciamo contro questa guerra cruenta decisa a tavolino da logiche che nulla hanno a che vedere con il benessere dei popoli, indetto dal coordinamento No Green Pass e oltre di Trieste. Sì, domani alle 10.30 in Piazza Volontari Giuliani a Trieste il coordinamento No Green Pass e oltre di cui faccio parte farà un corteo, il settimo se non vado errato, contro la guerra. I primi erano, univano anche il discorso dell'opposizione al Green Pass, all'obbligo vaccinale, che adesso non sono più in vigore per quanto riguarda il Covid, e quindi univano i due temi. Adesso insomma scendiamo in piazza contro la guerra. E noi sì, si parlava prima di George Ibrahim Dalan, un rivoluzionario che ha dato tutta la sua vita per lottare contro la guerra imperialista. E noi sì, siamo un movimento insomma diverso assolutamente, nel senso che è un movimento che è sorto qua, un'assemblea popolare che è sorta per l'opposizione al Green Pass, che però dopo si è posta anche essa, perché viviamo in una fase storica di un certo tipo, si è posta la questione della guerra, lo si è posta come un movimento di massa che rivendica qualcosa rispetto al governo italiano, allo Stato italiano, come ha rivendicato la fine dell'emergenzialismo sanitario. Oggi si batte contro la guerra, contro l'emergenzialismo bellico, chiamiamolo così, in particolare contro la partecipazione italiana alla guerra, che si sostanzia insomma con l'appoggio al regime ucraino, la fornitura di armi. E come coordinamento No Green Pass e oltre, questo passaggio si è venuto politicamente insomma in un certo senso anche spontaneo, anche se non è scevro da contraddizioni, però insomma chi si è ribellato a una narrazione unilaterale e totalitaria sulla questione del Covid si è poi ribellato anche a una narrazione unilaterale, fanatica, guerra fondaia sulla guerra, e quindi noi l'abbiamo detto chiaramente: noi non stiamo con la NATO, non stiamo con l'Unione Europea, non stiamo con Zelensky, non stiamo con la nostra parte, quella che dovrebbe essere la nostra parte, e quindi rompiamo fronte di unità nazionale che invece loro signori vorrebbero attraversare la società e cementarla intorno all'idea della guerra, alla necessità della guerra e della guerra imperialista, e insomma ci battiamo insomma perché per un'altra prospettiva insomma sicuramente abbiamo di fronte in un certo senso un muro, ma insomma sui muri insomma la lotta popolare insegna che bisogna battere, ecco. Uh-huh. E quindi non possiamo non fare altro che questo, continuare a mobilitarci, e quello che è importante penso io è che in tutta Italia domani o scorso fine settimana ci sono state manifestazioni contro la guerra, domani ci sono manifestazioni a Roma, a Mestre, a Trento, Bolzano mi pare, sì. Dello scorso settimana c'è stata a Milano, quindi c'è un po' un risveglio del movimento contro la guerra imperialista, che è importante perché il nostro paese è purtroppo in prima linea. Trieste lo è in particolare, dato che il governo l'ha designata addirittura porto di Kiev, e gli amministratori del porto i padroni del porto hanno detto chiaramente: non solo armi che passano, quindi le armi passano. Abbiamo visto i carri armati a Opicina, quindi sul Carso Triestino, a Udine, a Sesana in Slovenia, quindi insomma qua le armi passano. noi rifiutiamo questo carico di morte e insomma continuiamo militare. Certo, bisognerebbe fare di più dei cortei, le guerre non si fanno con corteo, queste sono, beh, sono cose che ci vengono dette, però noi iniziamo da questo, insomma, noi vogliamo dimostrare la nostra opposizione popolare. Bisogna costruire un largo movimento contro la guerra, come quello che c'è stato ai tempi del Vietnam. Rischiamo tanto, perché la prospettiva della guerra con la Russia è una prospettiva di una guerra tra potenze nucleari, e quindi qua non stiamo giocando, cioè l'Italia non sta partecipando al massacro dei palestinesi che pure resistono e lottano, qua ci sono delle potenze che si stanno scontrando e noi ci siamo di mezzo, quindi la questione, se vogliamo, anche se insomma questi discorsi sono validi fino a un certo punto, insomma la vita di popoli massacrati come quello palestinese, afghano, iracheno, tutti questi anni è stata una tragedia, un crimine a livello globale, ma insomma qui rischiano anche gli europei in prima persona, ecco, quindi bisogna mobilitarsi. Sì, è giusto, contro questa guerra assassina. Quindi appuntamento di nuovo, lo ripetiamo, domani mattina 10:30 in Piazza Volontari Giuliani a Trieste per il corteo contro questa guerra e contro questa sbilanciata partecipazione dell'Italia a questo, diciamo, affare, fra virgolette. Sì, ricordo anche insomma il segnale che è stato dato da Meloni, Crosetto e, e la russa a Udine quando hanno parlato di migliaia volontaria, è un segnale molto grave rispetto ai giovani, questi cercano carne da macello, comunque c'è una militarizzazione anche ideologica sempre più forte della società, quindi bisogna scendere in piazza. Certo. Giusto. Niente, noi ti salutiamo per stasera e alla prossima. Grazie a voi, ciao. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Stiamo ascoltando queste band, dico queste band perché si tratta di una compilation uscita nel 1982 che raccoglieva le maggiori punk hardcore band del periodo tuttora viene ristampata, è stata ristampata quasi 15 volte dal 1982 ai giorni nostri. E purtroppo potrei farvi un elenco delle band che ci sono, ma sicuramente lo faccio in modo errato riguardo a quello che stiamo ascoltando. Comunque tutte band storiche dell'anarcho-punk finlandese dei primi anni 80, anzi fino al 1982. Non ho detto la cosa principale, che questa compilation si chiamava Propaganda Russia Bombs Finland. Bene, propaganda Russia Bombs Finland era il titolo di questa compilation uscita nel 1982, raccoglieva tutte le band punk, anarco, hardcore finlandesi del periodo. Ora andiamo all'ascolto invece di questa band che si è formata negli anni 90 e dal loro album datato 1993 che si chiama Alerta Antifascista, ci ascoltiamo gli spagnoli Sin Dios. Bene, teniamo in sottofondo questa band, loro sono i Sin Dios. Devo anche fare una correzione, che ho annunciato un album per un altro, perché questo, diciamo che noi stiamo ascoltando da un CD che vengono raccolti due album, ovvero Alerta Antifascista e Ruido Anticapitalista. E l'album che ci stiamo ascoltando è Ruido Anticapitalista, perché vabbè, mi sono accorto ora che in copertina sul fronte c'è scritta una cosa, sul retro ovviamente la lista esatta dei brani. Comunque loro sono i Sin Dios, sempre dalla Spagna. E tutto questo anche per dire che siamo giunti al termine della trasmissione, che è Jardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30. Ormai mancano pochissimi minuti, anzi neanche due, Ricordo i nostri contatti, oltre a dirvi che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Trieste, e i nostri contatti, se volete scriverci tramite posta elettronica, è liberetutti@autistica.org. ripeto, liberetutti@autistica.org, oppure potete scriverci intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro 34121. Ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro 34121. Inoltre, se volete riascoltare questa trasmissione, potete andare in rete cercando il blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org, e potete ascoltare questa trasmissione ma anche quelle dei giovedì scorsi. Siamo sempre in diretta qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine, e inoltre potete ascoltarci domani in replica sulla web radio Radiazione dalle ore 17. Bene, siamo giunti proprio al termine. Ciao a tutti, e vi lascio con i Sin Dios.